Leggo sui giornali, leggo che Berlusconi giorni fa è andato a cena a casa di Pannella. Lo compiango sinceramente. A cena a casa di Pannella, modestamente, ci sono stato anch'io, sarà stata più o meno la primavera del 1966, e anche se a quell'epoca i radicali non avevano ancora scoperto il valore politico del digiuno, non la ricordo esattamente come un'occasione esaltante sul piano gastronomico e conviviale. A differenza di Berlusconi, Pannella ha sempre vissuto solo di politica, e a quello che metteva o non metteva sotto i denti non ha mai dedicato nessuna attenzione. Chi affronta la prospettiva di una cena a casa sua dimostra che lui, per la causa, con la causa con la maiuscola, è disposto a fare di tutto. Per Berlusconi vi confesso, mi accorgo di provare da qualche tempo una certa riluttante ammirazione, e voglio anzi parlarvene prima che le regole della par condicio me lo vietino definitivamente, perché avrà i suoi difetti, ma sta passando con animo impavido dei gran brutti momenti. E non mi riferisco ai giudici che con perfetta scelta dei tempi hanno già cominciato ad assolverlo. Il fatto è che, spinto dall'insano desiderio di vincere le elezioni regionali, il poveraccio è costretto alle frequentazioni più curiose, è costretto a scambiare piacevolezze con Fini, a farsi venire in mente qualche argomento di conversazione adatto a Casini, che non deve essere una cosa facile, ma deve anche offrire passaggi aerei a Cossiga, stringere accordi con Bossi, civettare con Buttiglione, andare a cena a casa di Pannella, appunto, e leggere senza fiatare le interviste in cui la Emma Bonino dichiara che sì, lei con il Polo potrebbe anche starci, ma solo se le politiche del 2001 le garantiranno, povera donna, il posto di vice premier. Ciascuno naturalmente fa il suo mestiere, ma è poco ma sicuro che il soggetto politico che uscirà da questi frenetici sforzi, se mai ne uscirà uno, avrà una morfologia da ircocervo e richiederà ai suoi zelatori delle capacità di equilibrio degne del circo Barnum, e visto che nessuno ha ancora trovato il modo di far coincidere l'indirizzo anagrafico degli elettori con quello ideologico dei candidati, e ci saranno senz'altro dei devoti seguaci di Comunione e Liberazione costretti a votare per noti senza Dio, fautori dell'aborto generalizzato e devoti alla causa dei matrimoni gay, e mentre qualche irriducibile libertario avrà il piacere, in nome della rivoluzione liberale e liberista, di mandare alla presidenza della sua regione questo o quel vecchio arnese missino frettolosamente riciclato. Al confronto la situazione del popolo di sinistra lombardo, Martinazzoli o non Martinazzoli, è un vero giulebbe. Visto comunque che anche la prospettiva di votare Martinazzoli non è la più esaltante che si possa immaginare, e che non tutti potranno cavarsela come me dicendo di essere anarchici, forse varrebbe la pena di riflettere un giorno o l'altro su un sistema politico che sta eliminando con implacabile zelo le scelte di valore dal momento elettorale. Perché ci sentiremo ripetere fino alla nausea, a destra e a sinistra, che i candidati non li dobbiamo mica sposare, che ciascuno può restare delle sue idee, che quel che conta sono i programmi liberamente sottoscritti insieme, ma in fondo sappiamo tutti che queste sono solo delle gran palle. Quel che conta sono i programmi è un vecchio alibi lamalfiano, utile solo a coprire i casi più acuti di falsa coscienza. Quel che conta in politica è chi si mette al potere. E anche se ogni tanto può capitare di essere costretti a metterci qualcuno nelle cui idee di fondo personalmente non si crede troppo, ammettete che da un po' di tempo nel nostro paese in tal senso si sta esagerando. Sarà il problema della governabilità, sarà la mistica del maggioritario, sarà la passione per il nuovo che avanza, il desiderio di espiare i propri peccati, non lo so, ma la politica italiana si sta riducendo sempre di più a un complicato puzzle tattico in cui di tutto ci si occupa, fuorché che di idee, il che naturalmente avrà le sue conseguenze, perché non tutti, per tornare al nostro punto di partenza, possono avere lo stomaco di ferro del cavalier Berlusconi.